attenzione canale 10. Ora canale 10. Ora. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Che avanti. Ah, non ho capito. Ciao a te, come va? Sei basso di radio, mi. Questo microfono originale. Ma dove sei? Haiti? Per quello ti ascolto segnale nuovo, radio 2, 3, 4, non di più. Già funziona questo, grazie a Dio già funziona. Questo già funziona quando lì l'apparecchio, ho detto, grazie a Dio. Ti avevo fatto da fare, cazzo. E non ti fai Haiti, me lo sei. Ah, meno che non sei il paese di tua moglie. Ah, dai, il primo sei. Ehi, cazzo. Ho capito, ho capito. Ehi, vabbè, non ti credere. Haiti c'è in fronte, Non è che si... che io arrivo a basso da Haiti. Adesso sei 9:20, abbasso, adesso sei salito. Allora c'è la propagazione. Ehi, ma vado, la tua propagazione, qui sono lineare. Allora io chiudo quelle cose io. Allora c'hai il paccioccio di qualcuno a fianco, se no guarda, mi sei fermato così adesso. Ma è bella la radio. Adesso sì. Ma perché l'ho messo nella barra pesante, mi dicevano non stai uscendo, stai uscendo male. Adesso stai uscendo bene, in questo momento sì, ma poco fa proprio, guarda, segnale quasi 9, la radio era quasi intollerabile, non si può capirti. Adesso non lo stai usando, nel senso, la piatta non ne funziona neanche. Ma è così, quando gli apparati li lasciano da parte e non li usi più, fanno quel difetto, l'ha fatto anche a me, non ti credi? Tutti lo fanno, tutti, gli apparecchi 27, gli apparecchi di radiomatoria, tutti lo fanno. Adesso volevo comprare uno nuovo, come si chiama? Ma vai, lascialo perdere quel maglio, a fottidini, che a 3-400 euro ti compri un chevuto, scusa, Ma ora sei matto, sì. Cioè, 500 euro c'era un chevuto completo. Se guardi bene su Facebook, completo di tutto. Alimentatore, la cassa, 1,80. 500 euro ne voleva. Ma mi fa vedere pochi chevuto in vendita, perché sono riuscito a avere il maggiore a quel sito. L'ho visto anch'io, non ti preoccupare. Ma pigliati il coso, il 680, 500 euro, veloce. Ci vuoi e te lo fai arrivare immediatamente. Completo. La linea completa lui ha detto che era, quindi non era solo l'apparato, la linea completa, quindi alimentatore e tutto il resto. 500 euro va bene, è un regalo. Non so, probabile, Cristiano, non lo so, io non l'ho controllato di chi sia morto o chi sia vivo, ma comunque sia. No, c'erano parecchi apparati in vendita a Sassari, che non sia quello che abitava vicino a Gian Maria. No, già è vivo quello. Ah, quello va bene, lasciate, c'è un giorno che quello è morto, sono quasi 5 anni, no, c'è tanta gente che è morta, non ti preoccupare, come ci bira i maturi, c'è molti parecchi. Ma ho visto tutti i palacchini che erano, tutti quelli staffalati, apparati vecchi, pochi. Vabbè, gli apparati vecchi cosa devi fare, non te ne vai nulla a me, a un certo punto te ne fai proprio niente. Ah, io sono... volevo mettere uno in casa, a fisco e buonanotte, poi in barra pesante, tanto non c'è mai nessuno, qualche volta da qui. Ma ne volevo, siccome ne avevo uno che andava in alto, non mi funziona, guarda, ho comprato un 3.990 euro, la verità, il mese scorso, per mia sorella. L'ho preso al volo e gliel'ho fatto comprare. E io c'ho il 4.000 che è uguale, identico. Gli ho messo in pratica il fotolino del 3.900 e c'avevo io, quindi c'ha due 3.900. Uno è normale, l'altro è con l'eco. L'unica cosa che devo comprare adesso, però, quando faranno il 110%, li compro l'antenna, li compro la sorella, il cavo, 60 metri di cavo, almeno tranquilla. Però la magnetica ce l'ha, c'è la magnetica in casa e almeno riesce a parlare con me, capito? Con me, con qualcun altro che è vicino, lo sai che dove abito io, dalla parte di Caporazzi, una parte aperta e l'altra chiusa, capito? Io non volevo mettere a casa, ma non sempre se perché è stata da vent'anni già. Solo che adesso mi hanno tagliato un radiale, era 4 radiali. Vabbè, pazienza, beh, anche io ci volevo un radiale in meno, ma non è che cambia niente, la verità, quindi, vedi tu. L'importante è che trovi l'apparato esatto, che sei a casa, prenditi un 80, prenditi al volo e sei tranquillo. Chiamalo se non l'ha già venduto, se no aspetti che prendi un 140 e sei a posto. L'ho avuto anche io il magno, lascia perdere, è come avere un 2009 in quello 4.000, non cambia niente, capito? Oppure un Saturneco, forse ti conviene più un Saturneco, se riesci a trovarlo 150 euro, 200 euro, se prendi uno di quelli te lo metti a casa, ma il discorso è sempre quello, sei sempre con 5 watt, invece con lo, come c'ho io il 140 che sto usando adesso, c'è la bellezza di 80-100 watt e ti puoi divertire, capito? Passi da 1 a 30 mega e ti diverti. Ma venga, che ne vuole anche molto, ne voglio, i cavi non costano di meno, anche gli aerei non costano di meno. Appunto, per questo sto dicendo, prenditi un coso, un Kenwood, un 140, un 180, quello che trovi, 300 euro, 500, va bene, almeno ti rivetti un pochettino, è molto meglio di un baracchino, mi la verità. Sì, va bene, è vero, metto la casa, poi mangiamo mai. Io sto usando quello, me, sto usando il 140, sto usando, non ti credo che stia usando un baracchino normale, eh. Sto usando il 140 io, già te ne accorgi che sto uscendo forte. No, io c'è un po' fa fare, ma vedi io bene, Blecco, mi sentite, Blecco, passo, chiudo, bravo, compro, vendo. Vai via. Ecco, amico, comprare orologi, ombrelloni, pagare poco. Cosa vendi? Cacciaviti? Boh, cosa vendi? Comprare poco cacciaviti io, vendere cacciaviti, ombrelloni, per insomma, comprare amico. A parola quella dei più io ho le monete da 10 centesimi, quello da 100 lire, quello da 50, poi ho le monete di Mussolini, se le metto cazzo su internet quella del dubbio. Tu comprare amico mio, tu bello amico! Si saluto là, io sono alle prossime, là. Saluto l'amico! Ehi, è Luca, comunque. Luca, ma ritorno da Sassari, comunque, non ti preoccupare, saluto anche a te, con il tipo tutto, vi sto dicendo, se ritrovati una panica come questa, come dicevo io, e sei a posto, lascia perdere tutti gli altri, a fottettini, tanto costa del doppio, a un certo punto, 300 euro li puoi spendere, 300, non lo so, qualcosa in più magari, però c'è una panica come si deve, capito? Avanti Luca. Sì, ciao Antonio, ciao amico, non so chi è, boh, Leone da Ite mi sa che sia, Leone. Ehi, a Leone. Ehi, amico. Chi è giunto a tuo padre? sono intrappolato con un computer adesso. Guardavo un PC. C'è un problema. Cosa la ricca, ah, non carica. Oh, yeah. Già avevi il computer, ce l'ho andato a far culo io, la verità. Ogni volta, cazzo, sempre problemi. Un anno mi ha fatto l'aggiornamento, poi deve avere la connessione wifi, e lui, guarda per lì. Ho preso, ce l'ho andato a far culo il computer, quello che c'avevo io. Avevo pagato 80 euro, l'MSI1, anzi l'MSI, per, no l'MSI1. Poi mi è capitato dentro un cassonetto un computer grande, bello, ma è vecchio, la verità funziona veramente bene, c'è le canzoni, c'è il karaoke, c'è tutto, c'è programmato, non faccio altro che scaricarmi le canzoni, cose del genere, e faccio il karaoke, e sono a posto. Ah, c'è il MSI? C'è un MSI, sì, bravo, sì, quello è vero. Quello costa? Sai dove l'ho pagato io? 80 euro quel cesso l'ho pagato, da Stefano. Una fottitura che non era, quindi a un certo punto è buttato a casa, l'MSI, quello piccolino, che non c'ha Bluetooth, non c'ha niente, non c'ha wifi, c'è il wifi, già ce l'ha, però il Bluetooth non c'era per niente. Quindi a un certo punto ho giubilato un'incolata, quindi ho lasciato lì, buttato a casa. Sì, vabbè, alla fine dovrei essere più, come si dice, devi chiedere prima di comprarlo, se ho fatto queste cose. Io non capisco niente di computer, cazzo, Luca, il discorso è quello. È come io, per dire, ti dico, ah, figliateli un 680, e poi dopo un mese c'è il PS2000, tanto per dire, hai capito? A un certo punto ti trovi quello lì, in confronto sembra un coso, sembra, hai capito? È una cosa piccola. Però, è meglio il PS2000 a un certo punto, ma il discorso è quello lì, io cosa ne sapevo, non ne capisco niente di queste cose qua, lo sai che io il computer proprio non ne capisco, tu le capisci, io no, puoi fare qualsiasi cosa, mio cognato si divertiva, faceva autoregolazione, eccetera, eccetera, io non riesco a fare niente con un computer, quindi a un certo punto, sempre il computer se lo può prendere in culo, so. Come è nato, c'è cosa ti posso dire? Il cappello della montata e il lampo, il coso è questo. Vabbè, cosa c'è? Alla fine devi chiedere, se non capisci niente chiedi a chi è esperto, qui ti dà un consiglio cosa fare o no, scusa. Ma quello che voglio non aveva nessuno di consigli, tu mi hai avuto magari un po' di amici che ti hanno dato una mano, quello che è, consigli, devi fare così, devi in pratica capire l'inglese, il discorso è quello, hai capito cosa vuol dire? Se io sono inglese, a un certo punto cosa ce l'ha a fare il computer? Il discorso è quello lì, piano piano bisogna fare le cose, a meno che lo faccio, se me lo vuoi far fare il corso, se faccio il corso un discorso è diverso, si vedrà cosa faranno l'ufficio di collocamento, se farò fare il corso di computer allora me lo faccio, e sono tranquillo. Sì, un casino. Non solo un casino, ma comunque te lo fanno fare. Il contatto di formazione, ti dicono, a un certo punto ci vuole il computer per tutto, anche per fare il bidello. Quale è uguale, non cambia nulla. Una volta che tu fai lì, è come, cosa ti posso dire, se facevo una volta la macchina da scrivere, per fare un concorso ci voleva usare la macchina da scrivere, è uguale. Adesso è preciso identico, devi usare il computer per fare il bidello, per fare il ci vuole quello, non ci vuole altro. è un casino al pompo. È un casino, questi computer, non ne capisci. Lo so, ma è proprio così. Ci vuole il computer. Per fare il bidello ci vuole il computer. Non c'è niente da fare, senza quello non fai il bidello. Dimmi tu cosa cazzo c'entra il bidello con il computer, spiegamelo tu quando il bidello faceva solamente una volta pulizie, andava, portava la roba dalla parte all'altra, eccetera, eccetera. Non c'entra niente. Adesso vogliono quello. Il discorso è quello lì, non puoi farci niente se vuoi lavorare come bidello, se no se la mia è in culo, non c'è più un bidello tonto, hai capito? Voglio un bidello che sia col computer. Vabbè, se lo vogliono io ce l'ho il computer. Se lo sappi usare me, quello che c'è il coso, l'ufficio delle arti mi scava il fino a aprile mi se vuoi andare, fai domanda, immediatamente ti inserisci mi, non ci vuole molto. Ma non ci vuole la licenza media? Sì, la licenza media, devi fare solamente il coso, la domanda all'ufficio delle arti, basta, non devi fare altro. Aspetta 2 secondi. Via. Mi però lì deve controllare su Facebook, capito? Anzi no, deve entrare direttamente dove c'è l'ufficio atta, dove c'è l'ufficio atta ti dicono dove stanno assumendo a Sassari e Sardegna. Di tutto, di più, mettevo, eravamo io e altri 2 CP eravamo. capito? Trasmettevamo uno dalla discoteca, l'altro faceva l'imprenditore lì in coso alla via Mendola, e poi io con il tavolo prendevo e salivo direttamente a segnare a Tempio. Figurati. Ma era abusivo però. Quel periodo lì non c'era niente, non c'era concessione, non c'era che tu. Kappa. No, ma dico abusivo nel senso come radio, visto, dicendo, non come CB, come radio per trasmettere. Come radio sì, allora io l'ho detto bandito, poi c'era un ragazzo di un CB di corso di Usini che parlava baracchino, lui trasmetteva la discoteca sua, avevo pensato un trasmettitore di quelli fatti in casa, un 2428 alla CTA, 5 watt l'uscita, da lì arrivava tranquillamente il verissero poi trasferivo il segnale, in pratica erano tappate dal monte poi dal monte direttamente al corso, hai capito? E già me lo ricordo, dai. Era Rizzetti in quel periodo. È stato popolato da Latino e ho fatto quelle 6 mesi, mi sembra che ho fatto 6-7 mesi, una cosa del genere, ma quello che è, mi sono divertito. Vabbè, meglio mi dice che sei tu malato, zia Ghisci. Quello sì, è quello che è vero. E da lì ti divertivi anche a parlare con un po' di pusti, quella lì era una zona buona, no? Da lì sì, sì, c'avevo di fronte, quindi mangiati. Avevo la fotocala, sì, 27. Si usi, la faccio venire insieme come niente. Poi vabbè, allora quel periodo lì non è che c'è tutto questo casino che c'è adesso. I ripetitori, 5G, cosa del genere. Quindi arrivavo tranquillamente con 30-40 watt, ci la produzione se arrivavo. Addirittura a Tempio, figurati tu, con la Gran Play, che avevo neanche a 4 metri d'altezza, figurati tu. E anche io l'ho avuta la Gran Play a Sacrofuori, quando abitavo a casa di mamma. Avevo quella, la LEM, quella con i radiali 2,75. No, io avevo la LEM e quella per la 8208, più che altro, capito? Installata lì. Poi se ti ricordi bene, c'erano due direttive in quel palazzo lì. Una era 10, 20, 40, 80, faceva, e l'altra me l'avevo costruita io. E la giravo, cazzo, con le corde la giravo, se ti ricordi bene. Quando venivi a parlare, cazzo, con cosa? Con Roberta e con la sorella, se ti ricordi bene. Con Samantha, amore mio. Samantha è brava, quella adesso è nell'ufficio, quando picchiamo le donne, cazzo, è bello quello, capito? Lei è lì che lavora. Invece Roberta fa la vigilante lì a Sassari. Portierato, brava. Anzi, brava, non brava. Ma io ci vo con Samantha. Vabbè, che se ne frega, quando ci vi con Samantha, che a un certo punto se la sei consenso. Fa portierato e la sorella è sempre di carattere, già lo sai com'è fatta, quindi con Roberto vado molto d'accordo, ma con la sorella proprio vabbè, è la più grande Samantha. Sì, un giorno quando sono andato con Simona a portargli il panettone, lo spumante, che non abitava qui a Carbonazzi, mi ha detto la volta Simona me l'ha detto la verità, questo me lo ricordo sempre, dice guarda, se sei innamorato di mia figlia, mi ha detto, dice, fagli la dichiarazione, mi ha detto, io ho detto, guarda, scusi, io ho detto, guarda che io non sono innamorato di sua figlia, ho detto, per me ho detto, sua figlia come me, fosse mia sorella, gli ho detto, che c'entra, gli ho detto, l'ho già compreso, si è capito male. E questi panettoni, mi ha detto, questi sfumanti, ma questi, cosa c'entra, gli ho detto, voglio bene a tutti e due, che c'entra? Io ho fatto una scelta, io me l'ho portato di fronte tra la mia fidanzata, quindi a un certo punto, mi ha detto, dice, allora dice, se non devi fare, dice, la dichiarazione a mia figlia non ci venire più male, mi ha risposto così la madre. Ah vabbè, io ho detto, allora io non ci vengo più, cosa vuoi che gli dica? Io ho detto, a un certo punto, ma che faccio per se la figlia, io ho detto, ma sei esaurita, ma ti pianti che mi hai capito, devo chiedere la madre della figlia, io ho detto, ma vai, cocca ne vai da me. Oi. Questi genitori si mettono sempre in mezzo alle cose che non le riguardano. E cosa succede? Sono andato con Simona, sono andato, non è che sia andato da sola, sono andato con Simona. Cosa succede? Dicendo per quello, non è che sia andato da sola, a me non me l'ha fatti nulla. Anzi, quando dopo la mezzanotte... cosa cazzo succede? La polizia è passata. A un certo punto io ho detto, non dico più niente, io ho detto, non ci andiamo più, e se la biglia in culo a giudice basta. Perché c'è persone che non apprezzano la gentilezza, fraintendono sempre, se uno è gentile lo fraintendono, capito? Uno non può avere un'amicizia e fare un regalo perché subito ha interesse, no? Non è così. Se tu ci tieni una persona, un regalo glielo puoi fare anche se non ha interesse per altri scopi. Sì, è appunto per quello, infatti non ci sei più andato, hai capito? Ho detto, guarda, tua madre, ho capito male, ho detto, diceva sempre della mamma, diceva, tipo come l'antico mi ha detto, certo, non so fare, dimmi una cosa, detto, non è che sono venuto da solo, sono venuto con la mia fidanzata, ho detto, a un certo punto, non è che sono venuto da solo. L'avevo presentata, eccetera, eccetera, sì. Mamma mia, cazzo. Ali, purtroppo sono cose che ti fanno rimanere male, tu vai con tante gentilezza e poi ricevi cazzi da sedere. E loro non hanno detto niente quando ha detto così la madre. Lei in pratica non c'era, c'era Katie, c'era la sorella, e Roberta era già andata via perché c'era l'appuntamento in coso, lo sai che loro a quel periodo lì casa andavano in coso, in discoteca, eccetera eccetera, capito? Quindi ho capito. E Katie non le ha detto niente? Sì, già gli ho detto che okay, dopo un po', infatti mi ha telefonato Roberto, mi ha detto, dice, scusa, mi dice, per mia madre, pensava, cosa deve pensare, io ho detto, male, mica siamo fidanzati, gli ho detto, scusa, siamo amici, anzi, è come se, per me, tu sei, è come se fossi mia sorella, gli ho detto, vai a toccare a te, gli ho detto, il discorso è quello, forse magari hai capito male, cosa del genere, perché era antica, e quindi, quando mi sono presentato con la mia fidanzata, cazzo, la mia da male, aggiunto, questo è il discorso, io detto. Sì, ma fregatene, se ti vuole cercare, ti cerca lì adesso. No, con la parte siamo molto amici, per quello non c'è problema, grazie a Dio, non è quello il problema, Non ci so niente con Roberta, niente, intanto con Katie mi scrive, quando qualche volta gli mando i cosi, i filmati sulla 27, mi cerca, tanto lei non mi sembra bello, mi c'è di entrare come prima, gli ho detto, vabbè, gli ho detto, si è sposata ormai, gli ho detto. Perché adesso è divorziata e quindi per i fatti suoi. Ma prima come me tu dice, sono sposato a Pissi, no? Aiuto, tu sei fortunato, hai fatto questo, per quello che ha fatto mio cognato, cioè tua sorella, ha detto la verità. A te gli ho detto, incula tuo marito. E cosa ha fatto? Perché quelli dei paesi sono così? Sì, quelli dei paesi sono così. O vivi vicino a mamma, solo te la prende in culo, cosa è quello? Ancora c'è una mentalità ristretta. E infatti appunto per quello sto dicendo, cioè, guarda, meno male sono uscita, dopo un po' di anni, meno male. La Roberta altrettanto, la Roberta sono uscita da poco, neanche 3 anni sono uscita. Adesso vive per i fatti suoi, non vive più a Tissi, quindi non so se dove viva Sassari, la verità, so che fa la vigilanza perché lavora insieme a Pietro, quello che parla l'amico di Giovanna, è entrato nella stessa vigilanza. Ah, quello che faceva il cuoco? No, non fa il cocco. Ah no, allora ho capito male io. No, per pensavo che era quello che c'era il pizzicotto con lì. Oh, quello è Giovanni. Ah ecco, cara cara. Alessio, è tutto cuoco, ma io... Eia, buongiorno, come va? Calabrese. Non a tutti e tutti, no. Ciao Natali. Ciao già. Tutti e tutti. Cazzo c'è cadavere, no? Magari zombie. Cadavere sono da zombie. Adesso meno male sono riuscito a buscare la visita all'endocrinologo. Però ci riuscì a tiesi, ma giubi. Guarda che cadavere sono anch'io, mi Natali. Non riesco a prendere un appuntamento per fare delle visite al cervello, figurati tu. Quindi sono, noi siamo dei cadaveri ambulanti, questo è poco ma è sicuro. C'è gente che ha visto a Roma un anno, 2 anni, eccetera, eccetera. Per fare che cosa? Non ho visto, ma stai scherzando. Ma non di fesserie, i cadaveri sono morti, non sono così, non sono vivi. Non ho capito nulla, tu no. Per fare le visite mediche, noi siamo morti in pratica, mi hai capito? Quello sto dicendo io, tu hai capito male, quello ti volevo dire. Per fare le visite mediche ci vogliono un anno, 2 anni, quello che... E quindi siamo come dei cadaveri ambulanti, mi hai capito? Se viviamo, viviamo. Se non viviamo, se la viviamo in culo, la visita non la facciamo, il discorso è quello. Allora lì, il sistema è questo, se tu paghi, diciamo, fare le visite, se non paghi devi aspettare, quello è poco ma sicuro, perché io devo fare l'elettrocardiogramma, ho telefonato e mi hanno ho detto ma voi siete convenzionati, sì, ma adesso non ci abbiamo posti, senza convenzione può venire anche stasera. Sono andato la sera, ho pagato 80 euro, non c'era un'anima viva, quindi poteva farmelo benissimo anche per la SL, non c'era un'anima, ero l'unico che sono andato, e dopo di me poi non lo so se è venuta gente, però intanto quando sono andato io non c'era nessuno e ho pagato 80 euro. Sì, sono d'accordo anche con te, però a volte la questione della visita a pagamento non serve a nulla, è come se non lo vogliono dalla SL, hai capito? Il discorso è quello lì, quello ti voglio far capire, perché a me un giorno mi hanno detto, e se io pago, gli ho detto, no, se lei paga, dice, non serve a niente, dice, mi ha detto, lei deve venire quando la chiamiamo noi, basta, mi ha detto. A pagamento, anche se è convenzionato un discorso, se non è convenzionato, dice quella visita che lei fa, non serve a nulla, mi ha detto. Anche dentro l'ospedale te ne fanno a pagamento, perché io sono andato al policlinico e non c'erano posti con la SL, ho preso l'appuntamento a pagamento, ho pagato e ho fatto la visita agli occhi. Meno male, sono contento per te, però in teoria a me mi hanno detto così, cioè non vale niente, capito? Se non è convenzionato con la SL, quella visita per la questione della pensione non vale nulla. Il discorso è quello. A me mi serve per l'aggiornamento della pensione e non ci posso fare nulla. Natalia, avanti. Io l'ho trovata per fortuna, ho telefonato stamattina perché si è cancellato un paziente, perché a Sassari non ce n'è disponibilità, assolutamente. A Tiesi giovedì devo andare e l'ho trovata per miracolo, fa cosa uno se è cancellato, se no non veniva neanche in Iciulugu. Casino, attesa addirittura. E anche in curva già, anzi, sono fortunato che l'ho trovata. Anche, deve essere che non hanno gli specialisti proprio a Sassari. Quando tu dici Sassari, no, Venello, assolutamente. Perché se stanno tutti i conti, ma se stanno tutti all'estero che li pagano di più. Queste saranno le cause sulle quali. Qua purtroppo da Italia mancano 20.000 medici. Perché tutti se ne vanno all'estero. Gli arugridi sono pagati 5 di più e non che pigliano una miseria. Anche quelli di famiglia stanno mancando, non ci sono più dottori medici di famiglia. E addirittura la mia dottoressa è andata in pensione e ha chiesto di restare e gli hanno detto di no, che aveva raggiunto l'età che doveva andare in pensione, che lui poteva operare come libera professionista, ma per la SL non vale più. Lo so, però riducava magari i dazi. Se ne si scrive come all'ordine, come libera professionista, travagli o non travagli devi magari darsi. Lei sta continuando, sta sostituendo medici, fa le ricette dove era prima, c'è un altro medico e lei fa le ricette, fa queste cose qua, lo aiuta, dai. Però non può fare proprio il medico per la SL, non è più convenzionato con la SL, non viene più pagato dalla SL. Gli mancano medici e poi non li fanno continuare quando vogliono continuare. E per raggiunti i limiti di età non ti fanno continuare, perché è un ente pubblico l'USL, capito? E allora? Sì, ma poi chi si trova male sono i pazienti, perché non ci sono più medici in giro. Infatti, la dottoressa tua vuol dire che se la sente di lavorare, io l'avrei fatta lavorare, se lui c'ha una certa esperienza, a mezza dire, i dottori vecchi sono meglio di chi dei giovani. E lei poi era la dottoressa delle carceri, capito? E quindi lo Stato non è che prende una così, prende gente che sa lavorare. Sì, era brava, era molto meticolosa, ti chiedeva, ti ascoltava soprattutto, non è come quei dottori che non ti guardano manco in faccia, stanno al computer, ti fanno la ricetta e ti mandano via. No, lei, infatti quando uno entrava vi stava un'ora, quello sì, però era molto meticolosa, ti chiedeva, faceva, capito? Se valutava anche i laureandi, ce l'ho avuta anche io, quella dottoressa, quella sì che era brava. È vero, c'aveva, ogni tanto faceva andare i trucinanti. E allora, gli faceva le domande, cosa gli dizia, vedi cosa ne pensava di un paziente, l'ho preso. E voleva sapere cosa che diagnosi faceva il laureando, capito? Sì, ma poi io ho avuto Paola Urtu, che era un'altra, quella lì era la dottoressa Cano, quella che ha avuto tu, ed era brava lo stesso. Poi è andata in pensione, però lì non ha, alla fine non ce la faceva più, me l'ha detto, non ce la faceva più. Invece la dottoressa Urtu mi ha detto che lei avrebbe continuato perché se la sentiva ancora di lavorare. Infatti la dottoressa nostra, quella che tu prima tu, quella lì era già in avanti con l'età e magari non se la sentiva più, perché è un lavoro stressante quello lì. Se lo fai bene sì, Natali, se lo fai bene essere una persona seria da facendo quel lavoro lì, c'è poco da fare, è di responsabilità come lavoro. Avanti Alessio. Sì, sono 1500-1800 adesso, se non mi ricordo male, e guadagno un sacco di soldi, quindi i medici, a un certo punto, vabbè, dopo il Covid, quindi siamo a posto, ma se dovessi trovare il Covid, ritroverò il casino, il discorso è quello lì, però male, il Covid è per il momento è passato, per il momento, poi si vedrà in seguito, anche se il Covid c'è lo stesso, è sempre in giro, già lo sai anche tu. Non è passato, no? Cioè, guarda che quando ero all'ospedale, il giorno dopo che mi hanno operato mi hanno sbattuto a casa perché c'era il Covid e per non contagiarmi c'era un focolaio e mi hanno fatto andare a casa. Il giorno dopo operato, non dico altro. È stato tu dicendo, Simone, è successa la stessa identica cosa, anzi peggio lì, perché è un casino quello che è successo a lei. Lei in pratica è stata ricoverata prima del Covid, infatti prima di esserci il Covid, diciamo prima, nel senso prima che il Covid c'era lo stesso, ma tutti sono stati zitti, quindi è stata ricoverata lì in medicina, e poi dopodiché da lì gli hanno messo una che aveva cazzo questa specie di cosa di non spiegare, già te lo spiego di persona perché è spiegato così, cazzo, è una cosa allucinante. Poi da lì l'hanno trasferita da lì in un'altra camera da sola per essere in quarantena. Poi da lì, dalla quarantena di lì, l'hanno trasferita a San Pietro. E poi cosa ho fatto io? Ho dovuto portarmi tutto. Da lì buste, televisore, eccetera, eccetera. Tutto a San Pietro, al primo piano. Quindi figurati tu quello che ho passato io. Non lo auguro a nessuno. Senza dire nulla, cazzo, che in pratica c'era il Covid, ma tutti sono stati zitti, tutti, da primo all'ultimo, in medicina. In pratica erano da denunciare. Invece a me è venuto a lavarmi, dopo l'operazione è venuto a lavarmi l'infermiere e mi ha detto: io non capisco come cavolo faccio entrare il Covid, qua ci fa il tampone ogni volta che entriamo, non capisco chi lo porta questo Covid, perché in palestra adesso, dice, è partito dalla palestra, poi si è divulgato nel reparto, adesso sta salendo su, quindi è meglio che tutti sgombrino, si preparino. Mi ha detto, perché io come faccio, sono stato appena operato e lo so, faccio questi flebo che mi stanno facendo e poi domani mattina al più presto ho avvisato e sono venuti a prendermi perché dovevo andare via, mi hanno fatto scappare. E tu non fuggi? E sono stato fortunato, Natali, perché ero in stanza da solo, cioè avevo la stanza a conto mio, ero privilegiato. Gli altri, quelli che erano nella stanza insieme, si sono contagiati a vicenda, quindi ho fatto, guarda, mi hanno messo mascherina, mani tutto da paura, per vedere gli infermieri disinfettando tutte le stanze, hanno sgomberato tutto il reparto, hanno disinfettato tutto, correndo da una parte all'altra, spostando roba, disinfettando. Mi hanno tutto da pado per portarmi via. Te l'hanno messo quella retina verde? Cosa? Se te l'ho messo quella retina verde addosso, in pratica, e i guanti, la mascherina, io andavo così da Simona, e devo prendere le buste, entrarcene dentro, e non mettere neanche sopra il letto, voglio metterli in terra, e stare distante da lei un metro, figurati, a San Pietro. Lo so che era così, sì, tutto in testa, nei piedi, tutto grande da panno. E vabbè, meno male che sono cose che si possono raccontare, dimenticate, non mi pare vero, mi sono ripreso bene. E invece io me la son preso. tutti abbiamo preso la caviglia. Venga, ti abbiamo preso, preso tutti senza niente saperlo. Questo è poco ma sicuro. Abbiamo pigliato a dicembre il Covid, come se fosse un'influenza normale. Ma cosa stai dicendo che non è così? Te lo dico io, bello bello, capito? È come avere la percentuale di invalidità. Vai, vai, che non è così, la stai dicendo. Ciao Antonello. Ciao, bello bello. Io col cocco male di Franco mi è entrato. Ciao Gianni, ciao anche a Natalino, buonasera. Per me, Fra, a che se ci credi? Sto parlando a voce bassa. Sì, grazie a Dio. Sembra che mi stia sgridando. No, è il mio tono di voce. No, il microfono che è potente, cosa stai usando? Sto usando il 680, dai. Con l'MC60. Ero grido io. Beh, Antonelle, allora, buonasera, amico. Buonasera, ci avrebbe sentito. C'era un tipo stasera che è entrato, stava cercando un 680, è entrato là, no? Non mi ricordo che paese era, la verità. Quindi, figurati tu, vabbè, c'era uno 500 euro su Facebook, se voleva quello. Se no si doveva comprarsi cazzo un coso, come si dice, di quegli apparati con lei, con eccetera, l'hai avuto anche tu, che lo sai. Io ho capito. Ciao Natali, buonasera. Ciao bra. Ma te ne immagini questa antenna di gomma, Natali? E allora? E sopra più visti che funziona, lei ora giù di caucciù per esempio. Ok dai, riprendi Gianni. Ma quella là non è ancora piazzata, Fra? No, negativo già, e adesso vedo un po' se ce la faccio. Al prossimo mese che cominciano le belle giornate la piazza. E con quella fai di ex allucinante. E poi non ci accorremo con l'antenna, è bella per quello. Sì, anche questa qua è un'antenna di gomma, ma già va bene. Vabbè, non è una grande antenna, però già. Ho visto che già funziona, dai. Ah, va bene, Fra. E fatto un affarone a prendere quell'antenna. E un affarone, me l'ha regalata Gimbudigia, dai. Infatti, anche col capo. Anche il capo, sì sì. Il capo costava 100 centenari. Già vanno bene. Uno stava dicendo oggi su internet che l'ha tornato, è un'antenna magnifica, che dice di darsene, ti aspetta quando piove, che da voi ti nabbisi giù. Ha detto che vuol dire che noi non la sappiamo piazzare se entra acqua. Gli ho detto, guarda, io sono 45 anni in frequenza di antenne, ne ho piazzato, ne ho piazzato con gli amici, ne ho piazzato dagli amici, e non hanno mai avuto questi problemi. Quell'antenna lì però ha tanta gente, ho letto delle recensioni su internet che entra acqua. Aspetta, se stai parlando della Energia 50, se si fa lì. Cioè, a un certo punto ci sono i peggi e i difetti, se uno li sa come fare, il discorso è quello. Guarda tu a Marco Condo, non è mai successo niente, grazie a Dio. È una 5 ottavi bella, quello che vabbè, non ne puoi mettere più di 500 watt, io ce li ho messi 500 watt, la verità. E li ho messi con Mario Manse, e me la sono bruciate due antenne. Per scherzo, la verità. Non per scherzo, per davvero, gli ho bruciato due di quelle antenne lì. Quindi figurati tu, il discorso è quello lì. Vabbè, ci sono altre antenne, c'è l'ultima tornado che è stata fatta, se parli di quella è bella, quella me la voglio prendere, costa 80 euro e 7 metri di lunghezza con 7 metri di radiale, non si sa come sia fatta, la verità. Al momento opportuno che c'ho un pochino di soldi, me la ordino e vediamo com'è fatta. Poi facciamo una foto, vediamo se esce bene, si installerà quella, se no ci sono quelli, come si dice, famosi che vogliono in pratica installare quella, la